il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Coltivar condividendo è il nome di un gruppo che si occupa di recuperare varietà di semi antichi e di diffonderli e promuoverli nel territorio, in particolar modo del Veneto. Oggi nella nostra trasmissione abbiamo la possibilità di approfondire questo interessante argomento. Siamo anche in tema di Expo che si è appena conclusa, dove questo era uno dei temi all'ordine del giorno. Abbiamo con noi Tiziano Fantinello, uno dei responsabili e fondatori del gruppo Coltivar condividendo. Benvenuto Tiziano. Grazie, buona giornata a tutti. La prima cosa è: che cosa vuol dire coltivar condividendo e com'è nata l'idea di questo gruppo? Diciamo che il nome del nostro gruppo un po' sintetizza quello che è il nostro lavoro, cioè significa coltivare, soprattutto coltivare la terra, ma anche coltivare le relazioni, cioè rapporti con le altre persone che amano appunto la terra e la biodiversità, e proprio all'insegna della condivisione, dello scambiare, non solo scambiare semi, ma anche scambiare informazioni, notizie, saperi, conoscenze, e quindi cercare di fare un cammino condiviso legato sempre al discorso della terra, del coltivare, della biodiversità. Voi, abbiamo detto, vi occupate di semi antichi. Cosa sono questi semi antichi? Non si parla di semi trovati chissà dove, magari preistorici, si tratta di varietà magari diffuse solo qualche decennio fa e che oggi non coltiva più quasi nessuno. Sì, esatto, diciamo il termine semi antichi un po' sminuisce quella che è l'importanza di queste sementi. Noi le chiamiamo molto spesso semi riproducibili, perché a differenza di quelli che sono molti degli ibridi che sono attualmente in commercio, attualmente in coltivazione, queste sementi possono essere riprodotte, cioè tramandate di generazione in generazione. Ce ne sono tantissime, si va dai fagioli che sono molto diffusi in provincia di Belluno, qui da noi ce ne sono circa 45 varietà tipiche della nostra zona, ai grani che hanno anche una storia molto più antica rispetto ai fagioli o alle patate, poi ci sono i mais, ci sono veramente un'infinità di sementi che possono, come dicevo prima, essere riprodotte. Ecco, cioè non si devono acquistare anno dopo anno, ma possono essere appunto moltiplicate dal stesso coltivatore. Quindi non si devono acquistare perché si riproducono, però non è facile averle, perché sia perché ci sono delle regole, sia perché non si trovano in commercio. Esatto, se noi perdessimo alcune di queste varietà non le troveremo sicuramente dove vendono i semi, sostanzialmente. Sono delle varietà proprio che vengono riprodotte e salvate dal lavoro appunto di recupero varietale, di miglioramento, di riproduzione che viene diffusa così sul territorio da quelli che vengono chiamati custodi della biodiversità, cioè persone che hanno cura di queste sementi e le vogliono tramandare. Ci sono una serie di leggi che purtroppo limitano questo utilizzo, soprattutto dal punto di vista di quelli che sono i professionisti. Noi notiamo che ci sono veramente tantissimi agricoltori che vogliono iniziare a coltivare queste varietà, soprattutto di fagioli, come dicevo prima, di cereali, eccetera, però ci sono delle leggi che limitano queste possibilità di commercializzazione, e contro queste leggi noi ovviamente cerchiamo di protestare sostanzialmente. Quindi voi recuperate, trovate o vi fanno sapere nel territorio che qualcuno ha dei semi di una varietà che non si trova in commercio e quindi non è acquistabile, però questa o è storica o è da recuperare, la biodiversità eccetera, o comunque ha delle caratteristiche che la rendono interessante magari per alcuni aspetti, e cercate di mettere in comunicazione delle persone di modo che altri, se sono interessati, possano arrivare ad avere quei semi e coltivare quella varietà, se ho ben capito. Sì. Esatto, noi ormai da diversi anni giriamo molto per la nostra provincia con un banchetto pieno di semi, partecipiamo a fiere, a sagre, organizziamo delle serate anche in piccoli paesi, invitiamo le persone a parlare di questi semi, molte delle persone li riconoscono perché magari li coltivavano i loro nonni, i loro genitori, proprio veramente decenni fa, qualcuno invece ce ne porta qualcun altro. Noi quando riceviamo dei semi li mettiamo in coltivazione, vediamo se effettivamente sono dei semi riproducibili, cioè che possono essere riprodotti, che non hanno delle grosse variazioni appunto dal punto di vista della riproduzione, e poi questi semi noi li coltiviamo noi, cioè aderenti al gruppo Coltivare Condividendo. Dopo qualche anno che abbiamo visto, annotato tutta una serie di caratteristiche di queste sementi, avendo un numero anche di un po' più consistente di semi, li doniamo, li affidiamo a altre persone che vogliono iniziare appunto a coltivare queste varietà tipiche locali. E poi man mano questa rete si espande e in questi ultimi anni ci sono delle varietà che all'inizio erano veramente un pugno di semi e adesso sono diventate avere anche diversi chili di sementi, e quindi abbiamo, oltre che salvato, anche sviluppato notevolmente questa coltivazione. Dove avete sede? In realtà non lo abbiamo detto. Di che zona, in che zona state facendo questo lavoro? Noi siamo tutti localizzati nella zona del Feltrino Bellunese, in provincia di Belluno, in questa fascia, però ormai abbiamo contatti con persone che sono anche nella zona del Trentino, della Carnia, del resto del Veneto, perché ci sono semi che hanno delle caratteristiche per essere coltivati solo in zone montane, come certi tipi di fagioli, certi tipi di mais, ma poi ce ne sono tanti altri che possono essere tranquillamente coltivati sia nella zona appunto del Bellunese ma anche nel resto del Veneto senza alcun problema. Quindi è una rete che si sta un po' diffondendo un po' ovunque, dove ci sono delle persone che vogliono partecipare a queste iniziative, noi siamo ben felici di donargli dei semi affinché possano iniziare questo tipo di lavoro. Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo assieme tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. All alone as you look through the door, nothing left to see. If it hurts and you can't take no more, lay it all on me. No, you don't have to keep it under lock and key, 'cause I will never let you down. And if you can't escape all your uncertainty, baby, I can show you how. Let my love in, let my love in. Baby, I can show you how. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di semi, di semi antichi, o meglio di semi recuperati, semi che venivano anche utilizzati una volta, di cui oggi è difficile trovare in commercio sia il seme sia il prodotto. Ne stiamo parlando con Tiziano Fantinelle, promotore del gruppo Coltivar Condividendo. Siamo nella vallata Feltrina. Dicevamo prima del lavoro che voi fate anche per far crescere questi semi, moltiplicarli e poi donarli, a quanto ho capito, e non venderli, perché forse voi non potete formalmente venderli essendo dei semi che non sono, di cui non è permessa la vendita. Fate degli studi anche per capire questi semi, magari che provenienza hanno, che tipologia, ecco, anche che tipologia di prodotti avete trovato rispetto a quello che si trova normalmente in commercio. Sì, diciamo che a noi personalmente non interessa venderli, perché abbiamo proprio l'intenzione di diffondere soprattutto la cultura del seme antico, sostanzialmente. Gli studi che noi stiamo facendo ovviamente non li facciamo da soli, perché ovviamente non abbiamo queste competenze, ma abbiamo una serie di tecnici con i quali collaboriamo. Diciamo un noto genetista a livello mondiale, Salvatore Ceccarelli, che lavora un po' in tutto il mondo e porta avanti l'idea della selezione partecipata dei semi, cioè una selezione che non viene fatta in laboratorio, ma viene fatta in campo, coinvolgendo gli agricoltori, tanti agricoltori che assieme cercano di fare questo tipo di selezione. Lui ci dà una mano molto importante per quello che riguarda sia i cereali che i fagioli, e noi stiamo creando questi tipi di campi catalogo, cioè delle piccole parcelle sparse su tutto il territorio, non solo bellunese ma anche appunto Veneto e le regioni limitrofe, e annotiamo dei dati che ci servono appunto per capire anche l'evoluzione dei semi, perché non sono dei semi statici che rimangono sempre uguali, si adattano i climi, i territori, e quindi è molto importante anche capire che evoluzionano questo tipo di semi. Avete trovato qualche cosa di particolare che secondo voi potrebbe anche avere un'evoluzione futura, magari per le caratteristiche che ha il prodotto che ne viene fuori? Sì, ce ne sono veramente molto interessanti. Ci sono alcuni tipi di fagioli, del fagiolo Gialetta, il fagiolo Bonel, che sono tipici del nostro territorio, che hanno veramente delle grosse potenzialità, dei balla rossa e via dicendo. Poi ci sono dei grani molto interessanti, sia alpini che per la zona della pianura padana, diciamo così, e poi ci sono anche alcuni tipi di mais che hanno delle caratteristiche molto buone dal punto di vista proprio anche del gusto e del sapore. Crediamo che abbiano delle grosse potenzialità, ci sono molte persone che lo stanno coltivando, purtroppo questo ambito è molto legato al discorso di autoproduzione per tutta una serie di problemi che ci sono proprio nella commercializzazione di questi prodotti, ma noi crediamo che la nostra agricoltura dovrebbe puntare su queste varietà che sono proprio tipiche di un territorio e quindi non è che possono essere delocalizzate, sono tipiche di questa zona, coltivate qui, hanno dei sapori e anche dei valori nutrizionali molto, molto particolari, quindi avrebbero anche delle grosse possibilità commerciali legate soprattutto al mondo della coltivazione biologica. Quindi se qualcuno ha un seme che coltiva, magari il proprio padre, il proprio genitore, il proprio nonno ha trovato dei semi, oppure se volesse recuperare dei semi usati un tempo per piantarli nel proprio campo, come fa a mettersi in contatto con voi? Allora noi abbiamo un blog, basta inserire nel motore di ricerca gruppo Coltivare con Dividendo e compare il nostro blog dove abbiamo dei riferimenti sia mail che telefonici. E poi organizziamo due appuntamenti, uno è anche molto vicino perché si svolgerà il 29 di novembre a Sedico, che è un comune molto vicino a Belluno, in una località che si chiama Villa Pat, e lì abbiamo radunato tutti quelli che sono un po' i scambiatori di semi con i quali collaboriamo, quindi associazioni come Civiltà Contadina, Archenoa, che è un'associazione grossissima austriaca, ma anche tante piccole realtà locali che vengono con i loro semi, li mostrano e poi li scambiano, anche se qualcuno ovviamente non ha nulla da scambiare, riceve in dono alcuni semi e poi inizia a fare questo tipo di lavoro. Ovviamente non vengono abbandonate queste persone, perché tutti i consigli o le esigenze che hanno possono contattarci e noi gli diamo assistenza sia dal punto di vista tecnico che anche da un punto di vista di conoscenze, perché tutto il materiale che noi elaboriamo e costruiamo nell'arco dell'anno è ovviamente a disposizione di tutti, non c'è nessun copyright o del genere, quindi le conoscenze vanno diffuse. Quindi appuntamento per chi è interessato a questo settore veramente interessante, il 29 di novembre a Villa Pat di Sedico in provincia di Belluno. Esatto, li aspettiamo tutti quanti, ci saranno anche dei convegni, dei dibattiti, anche dei mercatini, quindi sarà una giornata all'insegna della biodiversità locale e quindi speriamo che tante persone si avvicinino, sia per curiosità ma anche proprio per assaporare certi tipi di sapori del tutto particolari alla nostra giornata e al nostro gruppo. Grazie. Grazie mille a voi. E andiamo a concludere la trasmissione con due notizie che rimangono sempre nello stesso tema. La FAO ha lanciato il 2016 come anno internazionale dei legumi. Fagioli, lenticchie, piselli e le altre leguminose si preparano quindi a un anno di celebrità. La FAO intende con questa iniziativa contribuire a incoraggiare un migliore utilizzo delle proteine provenienti dalle leguminose lungo tutta la catena alimentare, nonché per incrementarne la produzione a livello mondiale. E adesso un appuntamento, tutela della qualità dei prodotti agroalimentari in un mercato mondiale in rapida evoluzione. È questo il tema di una conferenza promossa dalla sezione nord-est dell'Accademia dei Georgofili e in programma giovedì 26 novembre 2015 dalle ore 11 nell'Aula Magna di Agripolis, la sede dell'Università di Padova dedicata ad Agraria e situata a Legnaro. L'incontro intende essere un approfondimento sulla tutela della qualità dei prodotti agroalimentari nell'ottica appunto di un mercato globale. Sono previsti interventi del professor Giuliano Mosca, presidente dell'Accademia di Georgofili Nord-Est, Stefano Vaccari, capo del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Massimo Ferasin, della sezione lombarda del medesimo Dipartimento, e Luigino Disegna, presidente dell'organismo di controllo CSQA. Con queste notizie abbiamo concluso, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.